Restiamo animali. Trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan. Persone in ascolto, questa è Restiamo Animali, una trasmissione per vivere, pensare e agire cruelty free. Siamo arrivati alla puntata numero 539, nella quale parleremo del difficile rapporto tra la specie umana e la biodiversità, dello stato delle foreste, della condizione degli indios. Parleremo di un autore sensibile alla questione ecologica, Jonathan Safran Foer, ma soprattutto dedicheremo questa puntata a Saturn, un alligatore morto alla veneranda età di 84 anni il 23 maggio scorso in uno zoo di Mosca, dove purtroppo viveva dal 1946. Parleremo di lui e con questa scaletta speriamo di avervi incuriositi. Eating my dessert in the bathroom. Can't get caught, so we stiller than a statue. Bad news, think I'll probably die before I have you. Soft skin, soft eyes. All these beautiful lives and beautiful thighs. They always kept me up at night. But I live for love and impolite. Cause your pussy is a wonderland. And I could be a better man. It doesn't matter. Il 22 maggio scorso si è celebrata in tutto il mondo la Giornata Mondiale della Biodiversità. La ricorrenza è stata proclamata nel 2000 dall'ONU, l'Organizzazione delle Nazioni Unite, per celebrare l'adozione della Convenzione sulla Diversità Biologica. La giornata vuole essere l'occasione per riflettere e discutere sull'importanza delle specie animali e vegetali e dei loro habitat e sulla necessità di tutelarli. Il 2020 è un anno fondamentale per la tutela della biodiversità planetaria, perché si approverà a livello delle Nazioni Unite la nuova strategia internazionale per la biodiversità dal 2020 al 2030. Dunque un decennio cruciale, vista anche la situazione climatica e le pandemie che sono conseguenza dell'azione umana sulla natura. Dunque un decennio ancora per tentare di salvare il salvabile. Capi di Stato e ministri dell'ambiente si sono impegnati a parole a fare il possibile affinché si inverta l'attuale curva della perdita di biodiversità in tutto il mondo. Anche il Ministero dell'Ambiente italiano, nella persona del ministro Costa, ha preso una posizione attraverso uno statement, una dichiarazione che è anche un appello, nel quale si cerca di tutelare quello che viene chiamato il capitale naturale, definito come un bene comune. Il passaggio che vorremmo portare alla vostra attenzione è il seguente. Il documento afferma che la diversità della vita sulla Terra è la base fondamentale, queste sono le parole del documento, della nostra ricchezza, del nostro benessere e del nostro sviluppo. Naturalmente, apro una parentesi, quando si parla di nostro, si parla di specie umana, una delle migliaia, milioni, forse miliardi di specie viventi sulla Terra. Continua il documento, noi siamo natura, deriviamo dall'evoluzione della vita su questo pianeta e non possiamo respirare, bere e nutrirci senza la disponibilità di sistemi naturali sani, vitali e resilienti. Dunque, l'impostazione, questo è il nostro commento, continua a essere un po' piramidale, antropocentrica, fortemente utilitaristica, noi siamo in cima a questa piramide del potere sulla natura. L'uomo sulla Terra vuole poter sfruttare la natura e per poterla sfruttare il più a lungo possibile bisogna che questa natura venga in qualche modo preservata. Non perché essa abbia un valore in sé, non perché abbia diritti in sé, ma perché la specie umana ha un disperato bisogno della vita che pure sta contribuendo a distruggere. Continua dunque ancora il paradosso. E intanto, mentre la scienza ci dice che il Covid è frutto del nostro rapporto malato con la natura, le frecce tricolori hanno schizofrenicamente solcato i cieli d'Italia con le loro vistose emissioni per festeggiare la fine del lockdown. Voi direte, vabbè, si tratta di pochi aerei, di un rito simbolico, un rito apotropaico. È vero, ma è anche vero che se come simbolo si utilizzano le emissioni di un jet e la gente va ad applaudire, qualche domanda ce la dobbiamo pur fare. Anche perché da Lufthansa a EasyJet Pensate, le compagnie europee hanno chiesto ai governi 12,8 miliardi di euro di aiuti. ONUItalia.com il 25 maggio è stato pubblicato un articolo che annunciava la nuova edizione del rapporto sullo stato delle foreste nel mondo, pubblicata dalla FAO in occasione della Giornata Mondiale della Biodiversità. E il rapporto in questione dimostra che la conservazione della biodiversità è in pericolo perché il modo in cui interagiamo e utilizziamo le foreste del pianeta è totalmente sbagliato. Il rapporto rivela che dal 1990 circa 420 milioni di ettari di foresta, una entità che sinceramente faccio fatica a immaginare, sono andati perduti a causa della conversione del suolo ad altri usi. Questo in generale. Poi andiamo nel particolare, concentriamoci sull'Amazzonia. In Sud America, nei primi 4 mesi del 2020, la distruzione della foresta amazzonica da parte di taglialegna e allevatori illegali è aumentata del 55% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Quindi il Covid non ha fermato un bel niente, anzi. Il National Institute of Space Research del Brasile ha affermato che nel mese di aprile quest'anno oltre 405 km quadrati di Amazzonia sono stati deforestati rispetto ai 248 km quadrati dell'aprile 2019. La Human Rights Watch Brasile avverte che le attività e le reti criminali continuano ad operare nella più assoluta impunità, trovando porte ancora più aperte, minacciando tra l'altro le popolazioni indigene e gli altri abitanti della foresta. Come sappiamo, gli indigeni che vivono una vita più simile a quella dei nostri antenati animali rispetto a quella che viviamo noi occidentali, hanno anche un sistema immunitario particolarmente esposto rispetto alle infezioni esterne. Per loro il contatto con l'uomo bianco, con questa parola vogliamo dire l'uomo civilizzato, quello che vive nelle grandi città, può essere letale. Ma nei territori indigeni arrivano centinaia di persone che svolgono attività illegali. Si tratta di cercatori d'oro, taglialegna, religiosi fondamentalisti che demonizzano il modo di vivere, la spiritualità e i saperi tradizionali dei popoli indigeni e vogliono convertirli. Si rischia quindi un altro genocidio indigeno dal momento che non ci sono strutture sanitarie per le comunità e non c'è soprattutto la volontà politica di intervenire. La nostra vita dipende anche dalla possibilità degli indios di resistere perché gli indios vivono in simbiosi con la foresta e la difendono. Non per niente da anni diamo conto in questa trasmissione della strage silenziosa di attivisti ecologisti indios che vengono brutalmente assassinati in tutte quelle zone del mondo dove esistono le ultime foreste primarie. Proprio perché questi attivisti si oppongono alle stragi di natura perpetrate da singoli e da multinazionali. Bisogna che al più presto la natura inizi a rappresentare un bene in sé, qualcosa che ha valore in sé e non solo un capitale da sfruttare. E perché sia così è indispensabile rivedere radicalmente anche il nostro modo di vivere e consumare. Give me some ketamine so I can feel alright. To plant my flag on distant shores and take me through the night. Cause if I had a race spirit child was broken and was bent. Now if I was a billionaire, now it wouldn't make me blue. I built myself a bullet train. Il rapporto sullo stato delle foreste nel mondo si conclude invocando un cambiamento radicale nel modo in cui produciamo e consumiamo cibo. A questo proposito, il 21 maggio scorso il New York Times ha pubblicato un ampio articolo dello scrittore Jonathan Safran Foer dal titolo The End of Meat is Here. La fine della carne è qui. L'autore spiega che la pandemia Covid-19 ha dato al mondo l'opportunità di riconsiderare ciò che è essenziale nelle nostre vite, incluso il mangiare animali, che sta mettendo in pericolo i lavoratori dei macelli, poiché i loro luoghi di lavoro sono stati identificati come pericolosi focolai di coronavirus. La nostra mano ha raggiunto la maniglia della porta negli ultimi anni, scrive Jonathan Safran Foer. Covid-19 ha aperto la porta a calci. Non possiamo proteggerci dalle pandemie continuando a mangiare carne regolarmente. Molta attenzione è stata prestata ai wet market, i mercati informali che espongono animali vivi, da dove sembra che sia partito questo ultimo virus. Ma gli allevamenti industriali, in particolare gli allevamenti di pollame, sono un deserto fertile assai più importante per le pandemie. Inoltre, i Centers for Disease Control riportano che 3 delle 4 malattie infettive nuove o emergenti sono zoonotiche, ovvero il risultato di relazioni scorrette con gli animali. Ma non abbiamo bisogno di proteine animali, scrive Foer, la sua risposta è no. Se lasciamo crollare il sistema dell'allevamento, non soffriranno gli allevatori. Foer ancora scrive no. Possiamo collaborare con gli allevatori per migliorare il sistema alimentare? Foer continua scrivendo di no. La sua risposta è no. Con l'orrore della pandemia che preme da dietro e le nuove domande su ciò che è essenziale, scrive Foer, ora possiamo vedere la porta che era sempre lì. Come in un sogno in cui le nostre case hanno stanze sconosciute, al nostro risveglio possiamo percepire che esiste un modo migliore di mangiare, una vita più vicina ai nostri valori. Dall'altro lato non c'è qualcosa di nuovo, ma qualcosa che chiama dal passato. Un mondo in cui i contadini non erano solo dei miti, i corpi torturati non erano cibo e il pianeta non era il conto alla fine del pasto. Lo scrittore Jonathan Safran Foer è noto per aver scritto diversi libri sul tema del consumo di animali, tra cui Se niente importa e il suo ultimo libro We Are the Weather. In italiano, possiamo salvare il mondo prima di cena, perché il clima siamo noi. Later. parlato di foreste, abbiamo parlato del nostro rapporto violento e schizofrenico nei confronti della natura. Teniamo adesso tutto insieme tornando a parlare di orsi, con un servizio curato dal nostro corrispondente dalle Alpi orientali, Zenone Sovino. Racconta che da sempre è appassionato della vita degli animali e aveva già visto un paio di volte, ma da lontano, l'orso lassù alle pendici dei monti sopra casa che sta nel paese di Sporminore, nel gruppo delle Dolomiti di Brenta. Siamo a circa 25 km da Trento. Il piccolo Alessandro, 12 anni, intervistato da Andrea Tomasi del quotidiano L'Adige, ha descritto l'episodio che lo ha reso una celebrità internazionale. Nel famoso video si vedono Alessandro che cammina verso valle con l'aria serena e soddisfatta e alle sue spalle, a poche decine di metri, sbuca un orso dai cespugli di pino mugo e si mette pure su due zampe per curiosare meglio. Era una normale gita in famiglia. Il piccolo Alessandro, la mamma e altri parenti lassù dove la presenza degli orsi è normale dopo il progetto di ripopolamento che va avanti da quasi 20 anni. Raro però è riuscire a osservarli, questi orsi. Alessandro ha spiegato che le altre due volte lo aveva visto, ma con il binocolo, quello del nonno che stava con lui. E chissà quante altre uscite invece sono andate a vuoto alla ricerca dell'orso, ma senza incontri, senza avvistamenti. L'episodio conferma che l'orso normalmente è curioso, ma anche schivo e che la presenza umana lo induce naturalmente ad allontanarsi, seppure non in modo precipitoso come farebbero altri animali selvatici. Il bambino spiega nell'intervista di non aver avuto paura, di aver subito compreso che quell'orso non era aggressivo e di essersi comportato come spiegano le guide. Quando ha visto che fra i cespugli non era solo, ma c'era pure un peloso enorme, si è allontanato con calma, senza gridare e rivolgendosi a bassa voce ai parenti per tranquillizzarli. Naturalmente Alessandro racconta che è stato bellissimo e ricorda a tutti che se si incrocia un orso bisogna evitare innanzitutto di infastidirlo, allontanarsi e non gridare, perché lui o lei ha già paura di noi. Se diventa aggressivo, magari perché è una mamma orsa che protegge gli orsetti, bisogna semmai spaventarlo, mostrandosi più grandi di quanto si è, allargando le braccia e afferrando dei pezzi di ramo e piano piano indietreggiare. Ma ora Alessandro ha solo tanta voglia di rivedere il suo amico orso, come ha confessato nell'intervista, e ha confessato anche di essere stato lui, proprio mentre era quasi faccia a faccia con l'orso, a dire subito al compagno della mamma che stava lì sotto di girare il video diventato virale. Thank you. abbiamo annunciato, dedichiamo questa puntata a Saturn, un alligatore di 84 anni morto il 23 maggio scorso in uno zoo di Mosca dove viveva dal 1946. Era nato nello stato del Mississippi, ma purtroppo venne regalato allo zoo di Berlino nel 1936, in pieno periodo nazista, e da lì è cominciato il suo calvario, la sua vita da recluso. Nel 1943, durante i bombardamenti della città, scappò dal suo recinto e di lui si persero le tracce fino al 1946, quando alcuni soldati britannici lo trovarono e lo consegnarono a quella che allora si chiamava Unione Sovietica. Non si è mai saputo come Saturn abbia trascorso quei 3 anni di latitanza, ma dal luglio del 1946 è stato uno degli animali più popolari dello zoo moscovita. Lo zoo di Mosca ha avuto l'onore di tenere Saturn per 74 anni, ha affermato la struttura in un comunicato. Per noi Saturn rappresentava un'intera era, e lo diciamo senza la minima esagerazione, ha visto molti di noi quando eravamo bambini, speriamo di non averlo deluso. Fa veramente impressione pensare di aver deluso un incolpevole alligatore che si è visto recluso in un ergastolo ostativo, fine pena mai, e sapere che le mamme portano i figli allo zoo a vedere questi grandi rettili vivi indossando magari stivali e borse ricavati dalla pelle degli stessi animali. Saturn potrebbe essere stato l'alligatore più vecchio del mondo, ma c'è un altro esemplare, l'alligatore maschio Muja, che vive nello zoo di Belgrado, in Serbia, e che ha 80 d'anni. Gli alligatori del Mississippi di solito in natura vivono fino a 50 anni. Non so perché ci diano questa informazione, forse per dire che è bello vivere in uno zoo, perché si può vivere più a lungo, soffrire come reclusi più a lungo. Regalare animali esotici vivi tra capi di Stato è stata comunque sempre una pratica di violenza e di dominio camuffata da alta diplomazia politica. Nel 2008 a Vladimir Putin fu offerta una tigre cucciola del Macha, ribattezzata Ussuri, successivamente affidata a un parco safari. Nel 2010, dopo che il dissidente cinese Liu Xiaobo venne premiato con il Nobel per la pace, il Nobel per la pace viene consegnato a Oslo, a differenza di tutti gli altri premi Nobel che vengono conferiti in Svezia, la Cina per ripicca smise di importare salmone norvegese, firmò un contratto da 4 miliardi di dollari con la Scozia, inviando poi un panda vivo allo zoo di Edimburgo per riconoscenza. Quando si dice che gli animali sono corpi che non contano. I wanna make another star, but you never try. I let you get inside my heart, but you just pass me by. I scream and fight just to let you know. And every night I dream I'll go. But all I ever seem to do is break down and cry. If you wanna give it one more try, I'll always answer when you call. I'll never learn to say goodbye at all, at all, at all. Dedicata all'anziano alligatore Saturn, la ricetta di questa settimana, curata dal tosco vegan chef Gabriele Palloni all'interno del suo spazio etico-gastronomico, Il Pasto Gentile. Ricordiamo che Gabriele Palloni è autore del libro La cucina regionale italiana vegana, edizioni Newton Compton. Il Pasto Gentile, un frigorifero senza crudeltà. In onore a Saturn, il longevo alligatore, dedico questa ricetta russa, il paese dove ha vissuto molti anni della sua vita. Gli ingredienti per 4 persone per le patate e funghi in salsa acida sono 600 g di patate, una cipolla, 200 g di funghi champignon, 100 ml di yogurt di soia, un cucchiaio di succo di limone, dell'olio extravergine di oliva, del brodo vegetale, prezzemolo tritato, aneto, sale e pepe. Lord, allow me to drink some more. He said what I am searching for are the answers to all which are in front of me. The ultimate truth started to get blurry. Some strange reason it had to be, it was all a dream. Per prima cosa unite il succo di limone con lo yogurt e lasciate riposare. Nel frattempo sbucciate e tritate la cipolla, fatela scottare con poca acqua e quando sarà evaporata aggiungete un cucchiaio di olio extravergine e lasciate soffriggere. Unite i funghi, anch'essi puliti e tritati a coltello, e fate cuocere a fuoco vivo fino a quando tutta l'acqua di vegetazione si sarà ritirata. Quindi unite lo yogurt di soia. Aggiustate di sale e pepe e versate il tutto in una pirofila. Adesso sbucciate le patate e tagliatele a fette sottili. Sciacquatele in acqua fredda e asciugatele con un panno, quindi fatele dorare in padella con olio extravergine. Adagiate le patate nella pirofila sopra i funghi. Aggiustate nuovamente di sale e pepe, quindi condite con l'aneto ed il prezzemolo e bagnate con un bicchiere di brodo vegetale. Coprite con un foglio di alluminio e cuocete in forno a 180 gradi per circa 35 minuti. Servite con dell'aneto tritato finemente. Razadon and Baba, they went down to Peachtree. Headliner, I challenge you to a game of horseshoes. A game of horseshoes! Now I see the importance of history. Why my people be in the mess that they be. Many journeys to freedom made it. Siamo in chiusura, vi saluta, vi dà appuntamento alla prossima puntata la nostra redazione al completo, che è composta da Roberta Marino, Francesca De Matteis, Lorenzo Guadagnucci, Gabriele Palloni, Gianni Ferrarotti, Giuseppe Coco e da Camilla Lattanzi, la voce che vi ha tenuto compagnia durante questo viaggio. L'appuntamento con la puntata numero 540 di Restiamo Animali è tra una settimana esatta, stesse onde, stessa ora. Fotografie, ricette, interviste, approfondimenti e il podcast di questa e di tutte le precedenti puntate nel nostro blog restiamoanimali.it. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan.